dice, quanto è veloce Bobby? Ci sono più veloci? Okay. Non esegui. Perché tu hai il vecchio, aspetta, può aggiornare, a mano l'8, perché siamo già a 10. E questo computer me l'ha regalato, l'ho coniato, ormai toccherà il 7. Dire che il 7 ce l'ha preso lui, capito? Gli ho smantellato l'ufficio di via di San Francesco. Vabbè, meglio dell'altro che è tutto incasinato comunque, questo mi sembra un po' più veloce, più nuovo, e gliela cambiamo la cosa, adesso l'importante è che ce l'abbia che funzioni. Sì. Però adesso io mi ricordo, vabbè, senti, metto l'antivirus, dopo per l'audio, poi ci ho messo la Stefano. Se lui c'ha XP, non lo ricordo più, io c'avevo Windows 7 là. Io XP l'ho avuto quella carta maggiore sul computer di Franco. C'è tutto comunque, vedi? C'è tutto, no? Questa volta lo leviamo. Rimuovi. Ok. Se gira la figura lì. Grazie sincero. Ma. Aspetta. Allora. Vabbè, tanto sta scaricando, guarda, io non mentre, ah, io mi guglio, no, aspetta, si tratta di una mente, io mi guglio, allora, disinstalla, avanti, avanti, cladi, tempo di... No, basta. Sì. Sta disinstallando, aspetta. Dai, io veramente mi mangio qualcosa. Sì, ma scegli a me invece di... Sto terminando, vedi che però. Scegli a me. Ci sta su Baltac 5 minuti. Ma che cosa? Le cigarette. Avanti come ma che cosa? Ecco, finito, sta disinstallato. Fatto. Esegui. Facciamo già l'explorer adesso. 8. Avanti. La Sicilia. Mi chiama. Non metto qua. Metto oggi più spalti. Poi, però mi sembra più veloce questo, eh? Via! Ma non ha, lascialo fare! E già c'è di nuovo io! Sembra più veloce! Comunque, l'altro, si può vedere, si può provare, tanto c'è qualcosa che ti serve, quel dell'altro! Nell'altro mi interessa salvare il coso. È in corso la verifica del computer. Mi interessa il log di stazione, basta, poi il resto non me ne ha fatti nulla. Ma non è qua, eh? Aspetta. Beh, ho preso la testa lì. Chi è? Oramai, ce n'è più forti di me. Vabbè Vanni, no, sto facendo col team Luca, mi sto facendo gli aggiornamenti del PC. L'ho preso nuovo, mi sta installando nuovi programmi. Tanto ci resisti a Cheduno che doveva venire a mettermelo a posto. Ho già fatto prima a comprare a Miro. Ma quindi stavi lavorando? Beh, ho finito di installarli tutto, mi è acceso e già è slip, già con i slip. E via da letto. Vabbè, qua io già sto bene, sono maniche corte lo stesso. Va bene. Ma non c'è lunga che sto facendo tutto il coso. Adesso non inizio il spogliotto, ma ok. Sta camminando lui, comunque molto più veloce dell'altro, eh. Non so, se ho già comprato, che processore hai? Come fa domande il cranio a me? No, no, è piccolo, è come l'altro, però è nuovo, è più veloce, quello là era tutto incasinato, però un sacco di mondetta, qua non c'è niente, quindi sicuramente è per quello. Non so cos'è brutto. Ehi, che cosa è vero? Non ho capito tu. Dove li faccio, ragazzi? Sì, quando fai la nuova installazione, normalmente quando non hai niente nello chip, quindi se hai installato i programmi diventa un problema. È lento e... E mi ha crepato tutto proprio, capito? Mi ha incasinato tutto. Vuole riformattato, non c'è niente il computer. Quindi l'ho attaccato direttamente e ne ho preso un altro, basta. Non è che posso stare a girarmi le balle, capito? Aspettavo qualcuno che veniva a sistemarlo, e invece non c'è venuto e allora ho fatto prima a comprare. No, non devo installare niente, assolutamente. Proprio zero sotto zero, guarda. Devo salvare dall'altro PC il AM Radio e me lo reinstallo qua e boh. E poi per il resto non aggiungo proprio di installare più nulla. Sì, ma lo sai cosa deve fare? Quello quando è. Se quello lì della giornata ne sono diviso, tu gli l'altro avviso, dall'altro lo metti in quello lì, e ne monti due di avviso. E poi lo ripulisci. E hai tutti i programmi, lo stesso, come da prima, sull'altro avviso. Vabbè, è un po' complicato, ma comunque così. E le lasciamo tutte e due dentro il nuovo, gli avvischi, il nuovo, che è preso in sull'altro. Già non sì. Vabbè, comunque, io stesso ce l'ho tutti duplicati, triplicati, il logo e stazione, perché poi lui, ho perso qualche volta aveva il logo. Adesso li ho salvati in chiavetta, in vari avvischi e insomma un sacco di queste cose. Almeno se lo dovessi perdere, da qualche parte lo recupero. E così, purtroppo è un disastro. È un disastro, il virus, gli dai 100 euro. Bastardo. Luca, mica ha finito, dove sei? Cazzo, c'è prima niente, sì. Installazione internet, quella è completata. Va via ora, scelta consigliata, dove sei? Sì, va via, non è problema. Oh, mica c'è anche Bandino, guarda che ha finito, riavvia ora, scelta consigliata, fai tu. Sì, fai il riavvio, clicca sotto e riavvia, non è problema. Ciao Bandi, ma devo riavviare, ciao, è stato qua l'installazione. Cioè, praticamente abbiamo aggiornato Windows, ma Explorer 8, cioè il vecchio. Allora scarichiamo l'antivirus, perché non l'avevo fatto scaricare, e dopo scarichiamo Backup, e dopo proviamo l'audio. Ma dopo proprio si va di dato. No, adesso tu scarica l'antivirus che mi interessa, mettivi l'antivirus. Poi mi si dice Paltalk e va bene così. Poi domani si vede che cosa l'altra cosa si aggiorna di nuovo. Se non adesso devo portare un cellulare da aggiustare. Se un PC non può non accendere. Adesso vediamo un po'. Se non accende vuol dire che. Proviamo. Quello che si va è fatto. È perfetto. Ho messo anche la scheda, la reate. Non è casinato, solo c'è una strisciata davanti, ma lì, cosa può essere? C'era questo PC, io non c'era, una linea viola da parte al monitor, un portatile. Brutta cosa, la scala video sono quelle, sì, la scala video. Quella scuola di video, quando l'ha incazzato, deve l'ha chiuso di botto, io non sono sicuro che gli avrà danneggiato il monitor. Non si arrabbi più. Sembra che abbia spaccato i cristalli liquidi all'interno. Può essere. Può essere. Quando lo accendi cosa accende? Non accende più. No, non accende, perfetto, non ce la sto usando. Quando io lo riavvio, no? Cosa succede? Riavvio, non male, solo c'è una linea davanti. Siccome ieri qualcuno mi ha girato, mio fratello l'ha chiuso di botto e c'è il filaggio e ha fatto questa linea. Ieri era, anzi io, fino a stamattina era Windows Vista, adesso è Windows 7, Ultimate. Sì, ma l'hai aggiornato tu a Ultimate, no? Perché Windows 7, vabbè, 7, Ultimate, però il discorso può essere anche aggiornata, cioè bisogna vedere se ti racconta anche due cose. Può essere quello che hai detto tu, ma può essere anche se tu hai fatto una nuova installazione, può essere che la scheda video non sia configurata bene. Guarda se nella scheda video fai così, vai su risorse di computer, scrivi proprietà e così via, o se dove devi entrare per darti tutti i sistemi, se diciamo tutte le verifiche sono aggiornate. Ma lì guarda, ti dovrebbe dare, se ti dice che la scheda video è aggiornata, allora purtroppo è così. Se invece c'è, può essere che bisogna aggiornare, magari sparisce. Può essere, o può essere che tuo fratello delicato, com'è? Siamo, sono troppo delicati i portati. Come su tutto quello che manca, cioè l'ho formati per di tutto, foto, musica, l'ho formatata a zero, adesso sta aggiornando la scheda video, ma non è quello, come l'ha chiuso, infatti mi ha detto mia cognata, era nervoso perché molto più ci si spegneva, ma non dipendeva, siccome l'ha controllato mio amico ieri, ha messo, non c'aveva antivirus, proprio era mostro, non veniva blu, l'ha messo nuovo, quindi ha aggiornato, ed era il dispositivo aggiornato, ed è a posto. Quando ce ne siamo andati dal produttore, se vuoi andare a casa, cioè prima si è chiamato e qui si spegne, è troppo strano, cioè ci ha messo l'antivirus, ha fatto una sanzione, siccome prima non ne avevi, ti ha rilevato due virus, l'antivirus. E cosa era, Vanni, l'aveva dato la notte, lo spinotto, infatti sta usando un alimentato di mio adesso, cioè non era il problema che gli ha controllato questo mio amico, gli ha messo a posto, gli ha fatto le pulizie e tutto, era l'alimentatore, adesso l'alimentatore usa il mio, perché provvisoriamente gli lascio il mio, e dava la porta al mio fratello del come si chiama, del monitor. Ah, io mando avanti il tuo mouse. Cazzo, manda avanti, se non mi dai un team, Cla, sono vicino io. Tu l'hai riavviato, mandami il team, io. Dammi la password. Ehi, va bene, guarda, pochi. 7003. Giornata vuol dire così. Ma è danneggiato il monitor. È un disastro. È un disegno di uno di un 4, mi pare che era un 3000, 2008, portato, non lo uso più, ma sono affatto, non so manco se accende. Tutto, capito? Adesso che sta girando, ma quello comunque qualcuno l'ha peccato, si fanno la posta, si aprono la posta per noi fare, quando sono fai che non conosce, che comunque non aprire mai se non è una fonte sicura, e anche tu che prima di aprirla la scarichi da un'altra parte, così gliela fai controllare davanti in fila. Però purtroppo quando si becca, diventa un problema. Lì ancora forse fortuna, vabbè, io sono residente, quindi quando è calcio lo tutto mi interessa. Di più sto apprezzando le cose che conosco, ma non perché gli altri, perché ci sono arrivato un po' di spam, un po' di bombetta, conti in banca, ho fatto l'affatto del conto in banca, ho capito di chi è, di tornare, una che fa così, no? Forse sì, forse io, forse l'altro, quindi vedremo se faccio. Ah, io vai avanti. Tutto e poi tutto spam, via, quella delle ciatole, anche perché poi... Come la faccio per fine, ma come dopo tu cade? Cioè, quando cade non dai. E così è, Vanni, così è. KK. Non c'è il signore. Adesso vediamo. Ecco qua. Poi a letto. Lo scarico, vediamo. Esegui. Naturalmente che lui sta facendo. Vedi che ha letto qua. Ma che pesante, qua il programma. Beh, la pennina già ce l'ho, no, con la musica. Già ce l'ho. Non la mettere musica, già ce l'ho la pennina. Ma tengo su un livello diverso. Se dico troppo piccolo qua. Lì adesso, non ti guardo qua, poi se tu vuoi un PC. Ci sono su internet, basta controllare. Possibilmente qua a Sassari. Stiano un meno meglio lo sbatti a testa, no? Un centro lo prendo, un bellino. Ma c'è un hard disk grande, no? Un hard disk da 20, un hard disk da 300, 320, da 500, perché no? Aspetta, vediamo un po'. Se ne esegue adesso. Grazie, vabbè. Ok. Mi taglio lo buco, questo. Ok. Cazzo, non lo devo. Aspetta. La 303, minchia. Aspetta qua, allora eccolo qua, mettiti il nick là, io scrivilo, non me lo metto più come te, 360, motivazione, dove sta caricando? Ehi Claudio 60, scrivi tu come era prima, ti do la password la mettiamo nuova, non lo so, scrivi tu, già te lo dico io. No, non aspetta. Poi la password, a me non li voglio password, boh, grazie. Tu non la vuoi punire. Ti voglio un capo, poi la tua, non la vero, vai, scrivi. Scrivi, dai, io muoviti. Non mi interessa vedere la password. Vai login. Ok. Sblocca. Hai sbagliato la password. Cazzo. Quanti numeri vuole? Non mi ricordo come cacchio è mica. Aspetta che lo cerco. Ma io guarda. Vai. Cos'è lui? A quanto è? Se a 6, a 7, a 8, a quanto è? Cos'è che tu la fatto? Ah, c'è! E neanche il tuo non è il mio, Mitra! Claudio! Cosa cazzo mi so, Guido, scusa? A quale cosa? Da quale culo ha vinto? Cosa mi so, Guido? Cla, oh Dio! Cazzo, c'è una scena, Cla, eh! Cosa ne so come la passo tutto? Ma metti! Non lo so, quello che ha detto che con Bongo, Cavallino, Michele, Giovanni, non mi so quello. Ma la parola l'ha sempre sbagliata, cosa cazzo oggi descrivi? Sei sbagliata, vuol dire che l'ho sbagliata, Cla. Cosa mi so quello? Perché tu è quello? Aspetta, poi controllo. Cosa mi so quello? Non è che cosa ne butto tu. Allora, Claudio. È quello, Claudio, trattino, 60 trattino, è quello, questo qua. Claudio, trattino, 60 trattino. A passo un taglio di correttivo mio, che non lo so qua. Devo mettere quella che c'avevo prima o nuova? Tu Claudio, la devi prima, quella nuova, se non è cambiata, la devi mettere quella che avevi prima. Quello che dicevo prima, cazzo, aspetta a vedere se la trovo. Vabbè, allora. Io la sto cercando, se me l'ho scritta, cazzo. Aspetta a vedere. Sì. Che vedo così. Allora, Paltark, eccolo qua. Va bene, aspetta, Aspetta, fermo. Thank you. Controllo. meglio. Però ho bevuto spirito uguale. Sì, ma se tu non molli il microfono non ti posso rispondere. Molla Roccato, lo facciamo domani, ti ho detto. Per quello se mi siamo entrati almeno se si parte il 3, quindi domani si fa il resto. Ci vuole molli, altri due ribalto domani, cazzo, eh? Guarda, guarda un po' se riesci a farmi entrare qua, mi sei un boccato, cra, vai. Sono montato il microfono, io ti sto spiegando, lo vedi anche tu, una persona che ha passato, a parte se vuole comprare un cazzo da voi. Questo cazzo di computer di Silvana non serve a una miccia. Questo non è bloccato, che stai andando bene. Ma ti giuro che Silvana, che tu vado a rivedere la Mondisco la 500, ma sei buffonente. È vecchio, c'ha 4 anni, vedi, leggi? Grazie per aver visitato il sito aggiornamenti, eh? Un cazzo, non te ne puoi installare. Affanculo. No. Adesso vediamo, aspetta, chiedo sicurezza. Zio. Aiuto. Aggiornamenti, vediamo. E sono automatici, vedi. Ogni giorno alle 3. Grazie alla bicicletta, l'ho messo io quello. È che non mi dà protezione da virus, non provato, quello mi interessa. Attivato e attivato, l'ho fatto io. Ci vuole se non si fa terra, altrimenti non puoi fare un cazzo. Io gioco Golden, non spacche 3, cosa vuoi che ti dica? Aspetta, fa una cosa, domani io sono a casa. Auguria, sono tutto il giorno a casa domani, sono anche lunedì, morendo, perché è dentro martedì. Domani mattina ti fai sentire, se non devi fare niente, mi fa lo squillo e così lo facciamo, con calma, perché adesso c'è fretta, e già sono 10:20. Ci vuole tempo qua, non potevo usare mezza volta a luna con più cazzo di computer. Lo facciamo domani. Aspetta, riproviamo. Perché forse magari ho fatto qualcosa io, sto male. Vedi, dove vi appasso lo scudetto. Aspetta. Adesso mi sincero la baracchi. Toglielo paltalchi, cazzo, toglielo, esce da questo cazzo di paltalchi. È intanto installato adesso, non mi interessa. Guarda, guarda. Aggiornate il corso, se glielo fare. Adesso questo non può fare, l'altra volta Stefano, mai tu non farlo. Perché non era, non so cosa cazzo c'era, ma se non è il computer tuo, è vero, di tuo cognato, di chi è? Lascialo così. Cosa ti ha detto cosa? Continua. Ah, ecco. Lascialo così. Allora. Aspetta un attimo. Guarda, tu vai a mangiare, lascialo fare. Vabbè, dai, rimani qua. Guarda adesso, Claudio. Almeno vuoi, ancora facendo sta. Quali sono i giornali disponibili? Aspetta, guarda. Aspetta, allora avanti. SMS Spacchi 3, vediamo, riproviamo. Accetto. La correzione di licenza. Avanti. Vediamo un po' se lo fa adesso. Se si blocca, vuol dire troppo a fare, c'è un altro problema. Mia vera domani, allora si vissi per prima di installare se non veramente chiudere tutti i programmi aperti. No, aspetta. Mettiamo Patak, non ce ne fa un cazzo. Aspetta. Ok. Poi ascolta, fa una cosa, io adesso esco. Dicendo io esco perché c'è il programma aperto, chiudi quel team, chiudo del tutto e dopo lo fai andare, mi fai sapere se l'hai installato, dopo rientro. giù dal team, poi vado su avanti come a casa. Passa in ascolto su 12.